concerto stupendo, tre musicisti di cui darò poi approfondimento all'interno di Jazz Live. Restiamo in scena, procediamo con l'ottava stagione di Agorà, che per sabato 3 febbraio 2024, cioè domani alle ore 21 al teatro La Casa del Popolo, ci sarà Saverio La Ruina con Via del Popolo. Via del Popolo, Casa del Popolo, iniziato subito facendo in questo caso un voluto refuso. Siamo per la rappresentazione, il lavoro di Saverio, che è Casa del Popolo, e lui prontamente ha aggiunto: no, no, è Via del Popolo, certo, ma tutto questo a intersezione tra il palcoscenico e il contenuto del lavoro, secondo me, ulteriore. E come sono cambiate queste passeggiate all'interno di Via del Popolo? Certo, sono cambiate in maniera molto molto sensibile e in maniera a volte così molto molto veloce. Avremo modo di trovare in questa camminata che faremo insieme a Saverio un lavoro che ha avuto il premio UBU 2023 come miglior nuovo testo italiano, scrittura e drammaturgia. Quindi direi di iniziare a conoscere questi percorsi con Saverio. C'è una questa via che diciamo tutto parte da una mia sensazione di grande tristezza. Una sera che vado sulla terrazza di casa mia e vedo questa via dove ci stanno praticamente, che poi è, non è tanto secondaria, c'è la via principale di Roma e questa è una traversa della via principale, Via del Popolo, però insomma aveva una vita importante perché c'era il cinema più grande di Castrovillari, c'erano tre generi alimentari, un macellaio, un fioraio, una trattoria, un calzolaio, una merceria, falegname, sarto, cioè veramente quando ci penso è brulicava. E tutta questa roba non c'è più, c'è rimasto sola una cosa che tra l'altro non c'è più neanche quella, ma quando ho scritto lo spettacolo c'era e la tengo perché comunque ha un senso tenerla. Quindi l'escamotage è quello appunto di due persone che percorrono questa via in tempi diversi e con un tempo diverso, quindi uno ci mette 2 minuti e 5 secondi, l'altro ci mette mezz'ora, forse anche già di questo più. È sintomatico dei tempi. Alle 8:24 minuti, Via del Popolo, in un panorama di realtà urbane, piccole e grandi, soprattutto le grandi che stanno sempre più unificandosi con la globalizzazione. La presenza dei grandi loghi riducono le metropoli sempre più simili una all'altra. Probabilmente è nei piccoli centri, dico spesso, che troviamo l'eterogeneità e troviamo una diversificazione. È molto più diversa, non so, Loreo e Cavarsi piuttosto che oramai con tutti i loghi per quanto riguarda i mercatoni, la grande distribuzione, quelle che invece sono due grandi, grandi città metropolitane. E non solo, tanti sono i motivi di approfondimento e dalla via che il pensiero poi porta a una velocità costante per seguire i tempi, questa passeggiata, i due personaggi interpretati da Saverio La Ruina, uno porta la passeggiata, il percorso in Via del Popolo in breve tempo e quell'altro invece ha un tempo decisamente esteso. E sul tempo, al termine di questa conversazione, dirò qualcosa che forse mi renderà impopolare, tanto per cambiare, però io ne sono abbastanza convinto. Ma a proposito di tempi, ascoltiamo anche ovviamente Via del Popolo con Saverio La Ruina, se coincidono le nostre modalità di pensiero. Esatto, sia perché appunto andiamo sempre più veloci, ma in questo caso specifico anche perché non vediamo più nulla, cioè non incontriamo, mentre prima in ogni caso incontravi, come fa la persona che ci mette mezz'ora, incontra tutte queste persone che comunque stanno davanti o dentro l'attività dove lui entra per fare le cose o che incontra davanti a queste botteghe artigiane, per cui è comunque sempre in relazione. E col cambiamento della globalizzazione, con la nascita dei grandi centri commerciali, via dicendo, anche queste hanno praticamente poi man mano impoverito queste attività fino a farle chiudere. E insieme a questa la cosa più brutta è che appunto si sono azzerate, annullate anche le relazioni che avvenivano in questi luoghi, che è il dato poi importante secondo me. Ha detto infatti lo spettacolo non è nostalgico, da una domanda forte in questo senso della comunità, cioè la comunità che si è persa, che era chiaramente poi alimentata dalle relazioni che continuamente avvenivano tra persone del luogo. Quindi certo, e infatti adesso l'uomo moderno va sempre più, poi un fatto soggettivo, ma sempre più verso una solitudine in qualche modo. Sì, questo è qualcosa che troviamo e che purtroppo è in crescita in diversi settori, con una mancanza di comunicazione, con la digitalizzazione di cui spesso parlo in tutte le sue accezioni, e questo non è altro che una passeggiata che ci rende ancora più solitari. E i tempi che sono ben diversi. Un altro aspetto che vorrei sottolineare in questa prima parte di conversazione che ho tenuto con te, Saverio: i tempi hanno la perdita di quello che riteniamo un tempo libero, che mai libero non è se ci pensiamo. Infatti l'osservazione, la comunicazione, la sorpresa, il dialogo fanno tutto parte di quello che io non definirei tempo perso, anzi tutt'altro. Molte volte mi scappa detto il miglior modo per impiegare il tempo è perderlo, per cui sì, è una frase un po' forte, però se ci pensiamo, insomma. Il miglior modo di impiegare il tempo oramai è perderlo, perché non è mai tempo perso, è il nostro più grande patrimonio, anche inconsapevolmente non lo perdiamo, anzi in quegli spazi non è che lo valorizziamo ancora di più. Down on you. proposito di Cavarzer, una signora che ho trovato così, poi a me piace fare conversazione anche con persone appena conosciute, no? Era festeggiata in un locale perché già da tempo aveva terminato il suo percorso lavorativo, quindi iniziava, già iniziato da tempo, il motivo di pensionamento. Molti lo vedono come: oddio, è in pensione e adesso cosa farai? E adesso che succede che sei in pensione? Beh, la sua risposta è stata fantastica. Ah, guardate, io non faccio niente 24 ore su 24 e è un attimo che arrivi sera. L'osservazione tipica: ma non ti annoi? Mi annoio. Operaio ex da cantiere, così da logistica, ho sempre diffidato, perché poi siamo noi che abbiamo questo motivo di impreziosire determinati spazi, che alla fine quello che ho notato, poi quando c'è da darsi da fare siamo, non dico, non mi piace la parola, i più produttivi, però insomma non trovo un altro termine, ecco. Mentre invece chi costantemente: ah no, ma io è tutt'oggi che, ah no, perché non ho un attimo, ah no, ma è tutt'oggi, alla fine poi vai a vedere, boh. Premio UBU 2023 come miglior nuovo testo italiano, scrittura drammaturgica, Via del Popolo, sarà domani alle ore 21, sabato 3 febbraio, al Teatro La Casa del Popolo, in via Matteotti 150 a Castello d'Argine. Via del Popolo è un primo pezzo, l'avevo scritto perché il Teatro di Roma fece alcuni anni fa un progetto sull'Italia al lavoro e chiese a un autore per ogni regione di scrivere qualcosa sul lavoro, e io a quel punto invece feci una cosa molto laterale, cioè quello di parlare della trasformazione appunto di questa via, passare dalla microeconomia alla macroeconomia. E poi in realtà, quando proprio al momento di farlo, siccome è stato con estate in cui è stato, ho avuto problemi di salute di mio padre, a dicembre alla fine non ho imparato a memoria quello che avevo scritto, e alla fine non ho partecipato, anche se ero dentro il progetto del Teatro di Roma, per questo motivo non ho partecipato. Però quella è stata la prima, aggancio, quindi era legata appunto al cambiamento proprio economico. E poi invece tutto questo sono aggiunte dei dati caldi, no? Quindi la formazione sentimentale, la formazione politica, il rapporto con i padri, il tempo, perché sono poi dei tempi, sì, narrativi diversi, è anche complessa da questo punto di vista, ma poi mi sembra anche di riuscire a comunicarli in modo abbastanza semplice. Sì, ma sono tutti aspetti che fanno parte del teatro, eh? Cioè, poi nel mio caso addirittura pongo anche delle condizioni perché non, in qualche modo, no, uno non vada a riproporre, cioè nel senso che io poi parlo veramente al pubblico che ascolta, cioè vedo proprio la loro espressione, la loro faccia, che da un lato è pericoloso, perché vedi, cioè uno potrebbe anche pensare ad altro in quel momento, avere un problema, che ne so, in famiglia o con il coniuge, e magari non ti segue in un certo modo, e magari questa cosa può condizionarti e ti condiziona. Però è proprio poi da quell'essere tutti lì con in fondo le nostre vite, la mia e quella del lavoro che devo comunicare loro, quello che portano le loro vite là dentro, e quindi per forza di cose lo spettacolo, il mio lavoro comunque ha degli accenti assolutamente ogni volta diversi. Dovremmo ritrovare il privilegio di concederci momenti di noia. E buongiorno a te Paola. Ma per noi che abbiamo questa, non dico filosofia, ma questi percorsi, la noia poi, a parte che non ha un'accezione negativa, ma non esiste. Adesso chi ha un hobby, chi legge, un hobby, insomma una passione per meglio dire, o chi legge, molte volte viene considerato ma ne hai del tempo per non far niente, guarda quante cose che sai, ma come? Termina il brano di Meyer Hawthorne, parte la pubblicità, rientriamo, abbiamo circa 10 minuti per ricordare due appuntamenti per due spettacoli di cui abbiamo parlato, Erta, Arena del Sole, Emilia Romagna Teatri, che sono ancora sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole, e avremo modo di ricordare, perché anche questo weekend saranno presenti, come ho già detto, per quanto riguarda la programmazione di Earth. A tra poco.